canzone, io ballo il ballo del mattone. Lentamente, guancia a guancia, io ti dico che ti amo. Tu mi dici che son bella, dondolando, dondolando sulla stessa mattone. No, non essere geloso, se con gli altri ballo a questo. Non essere furioso, se con gli altri ballo il rap. Con te, con te, con te, che sei la mia passione. Io ballo il ballo del mattone. Lentamente, guancia a guancia, io ti dico che ti sulla stessa mattonella. No, non essere geloso, se con gli altri ballo il twist. Non essere furioso, se con gli altri ballo il rock. Con te, con te, con te, che sei la mia passione, io ballo.